Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana. I temi di questa giornata economico-finanziaria, temi che arrivano anche, come spesso avviene lunedì, dal fine settimana, dal weekend. Beh, insomma, due diverse visioni, chiamiamole così, al Fondo Monetario Internazionale, riunito a Washington, tra il governatore della Banca d'Italia, Mario Draghi, che è anche presidente del Financial Stability Forum, e del ministro dell'economia Giulio Tremonti. Senza voler cercare delle contrapposizioni forzate, però i punti di vista sono diversi sia sui bonus e il ritorno delle speculazioni. Un'accusa lanciata dal ministro Tremonti: gli speculatori sono tornati a piede libero, la speculazione a piede libero, e i bonus che si danno ai manager delle banche sono anche più alti, più forti di quelli di prima della crisi. E dalle risposte o commenti o analisi diverse invece da parte di Mario Draghi. Per quello che riguarda gli interventi del Fondo Monetario Internazionale, si è discusso anche molto non solo dei bonus e della speculazione, ma della guerra valutaria, guerra che c'è, secondo il ministro all'economia, rapporti di cambi sbilanciati. Oggi l'euro è sempre a quota 1,39. Invece Mario Draghi ha una valutazione un po' diversa. E anche sul PIL, Tremonti dice: attenzione, ci aspettiamo un ulteriore miglioramento della crescita italiana. Il governatore della Banca d'Italia dice: attenzione, l'Italia deve coniugare, mettere assieme crescita e austerità. Questo per quello che riguarda il Fondo Monetario. Commenteremo anche i premi Nobel all'economia che sono stati dati a Peter Diamond, Dale Mortensen e Christopher Pissarides. Perché? Perché su questo il filo comune di questi tre premi è legato al mercato del lavoro, sono studi sul mercato del lavoro. E vale la pena ricordare come, se negli anni passati l'Accademia di Stoccolma avesse premiato premi Nobel che ragionavano soprattutto sul mercato, sulla simmetria informativa, sulle capacità anche del mercato di regolarsi, insomma era figlia, ogni tanto anche l'Accademia sente i tempi, li sente anche in questo caso, perché il tema del mercato del lavoro e della disoccupazione è il tema del 2010 e del 2011, e non è un caso che il Nobel venga dato a chi il mercato del lavoro ha studiato. Hanno studiato il rapporto tra lavoro e disoccupazione, come funziona il meccanismo della domanda e dell'offerta di impiego. La domanda con cui hanno vinto il premio Nobel è molto semplice, se vogliamo. Cioè, ci sono chiesti, la sto banalizzando, perché tanta gente è senza lavoro quando allo stesso tempo ci sono numerosissime offerte di impiego, altra cosa che anche noi ricordiamo, e allo stesso tempo come la politica economica possa influenzare la disoccupazione, quali possono essere le politiche contro la disoccupazione al di là di quelle che poi sono le offerte vere e proprie delle imprese, cosa può fare la politica e la collettività. Dicevo, questi temi di carattere internazionale in apertura, compresi però anche i dati che sono arrivati sulla produzione industriale italiana. Poi parleremo di Ferrovie dello Stato, dello scontro insomma tra NTV Italia, Montezemolo della Valle da un lato e Moretti, numero uno delle Ferrovie dello Stato dall'altro. La borsa come va? Va abbastanza bene, più 0,4% Milano, più 0,3% Francoforte, chiusa oggi Tokyo, aperta invece l'America, invariata in questo momento, Londra più 0,2% come Parigi. Tra i titoli segnaliamo oggi più calma Fondiere Assai, anche se guadagna un altro 0,60%, molto bene Bulgari più 5,34%, Exor più 4, Prismian più 2,3, Geox più 2, Atlantia più 2, l'1,6 lo guadagna Mediobanca e anche Fiat, e Unipol 1,5% rialzo di ST Microelectronics. Chi perde? La Popolare di Milano 1,5%, Mediolanum meno 0,80, Telecom 0,5% di calo. Nella seconda ora del programma invece avremo ospite l'avvocato che insomma è riuscito a vincere decine e decine di casi, 170 vittorie contro le banche. Nei casi specifici ha recuperato 60 milioni di euro dai crack Argentina, Cirio e Parmalat, e ha riportato anche la prima vittoria in giudizio per il caso Lehman Brothers, insomma un mago a dirla così, pari a 51.600 euro, e la banca che aveva collocato i titoli di le obbligazioni di Lehman Brothers ha chiuso il contenzioso patteggiando senza arrivare poi, diciamo, al giudizio definitivo. Infatti una soluzione extragiudiziale, per essere precisi, con restituzione integrale del capitale. Insomma, vorremmo capire come fa a obiettivamente a vincere tutte queste cause. L'America è aperta, ci chiedete? Sì, contrariamente alle indicazioni che non sono arrivate, l'America oggi è aperta, infatti l'indice è più 0,04, poca cosa. Ultima cifra, quella per i vostri sms, 349-238-6666. Partiamo allora con le altre notizie, quelle in breve di questa giornata economico-finanziaria. Petrolio sempre sopra gli 80, ma in leggero calo, 82,4 dollari al barile. L'oro è sempre da record, insomma 1355 dollari all'once. E il dollaro oggi viaggia di nuovo ai minimi contro lo yen, contro la valuta giapponese e anche contro la valuta cinese, lo yuan. Quindi non solo non è servito l'incontro Cina-Europa, ma non è servita nemmeno, diciamo, un incontro, la mediazione a Washington del Fondo Monetario Internazionale. Nuovo minimo, dicevo, di 15 anni contro lo yen, arrivando a 81,38, e anche nei confronti dell'euro siamo vicini a quota 1,40. Delude quindi il risultato dell'Unione del Fondo Monetario Internazionale, la cosiddetta guerra delle valute sarà il nostro tema di apertura, ancora un po' di pazienza, però quello che su cui si concentra il mercato in questo momento è la possibilità, per alcuni una certezza, che la Banca Centrale Americana possa avere ulteriormente una politica espansiva. Quantitative easing si chiama in gergo, vuol dire che la Banca Centrale Americana è probabilmente, perlomeno, tornerà a acquistare obbligazioni americane finanziate attraverso l'emissione di moneta fresca. È un elemento che, diluendo la moneta in circolazione, deprime ulteriormente le quotazioni del biglietto verde. Parleremo anche di Oliver Stone, perché oggi ha presentato a Roma il film Wall Street, il denaro non dorme mai, Money Never Sleeps, che è Wall Street 2. Noi spesso usiamo alcune frasi di Gordon Gekko in quel famoso film, e ha detto, tra l'altro, Oliver Stone: le banche sono ora i primi ladri e tra l'altro dipendenti dalla morfina erogata dal governo, nessuno si fida più di loro, siamo oggi di fronte a una forma di capitalismo predatorio. E da segnalare anche il fatto che il Papa oggi, in un discorso a braccio per il sinodo sul Medio Oriente, ha detto: dai capitali anonimi che schiavizzano gli uomini ad un modo di vivere immorale, dal terrorismo ideologico alla droga che divora la terra, anche oggi sono false divinità che distruggono il mondo. E appunto, tra le false divinità indicate ci sono soprattutto i capitali anonimi e la vita immorale. Vedo già la vostra battuta. Sì, non so se adesso il Papa obiettivamente si riferisse anche ai capitali anonimi dello IOR, insomma, immagino fosse un ragionamento un po' più ampio. Comunque, andiamo avanti con per quello che riguarda i mercati. La Grecia, per fortuna, dalla Grecia arrivano buone notizie. Per la prima volta dal 22 giugno la differenza tra quanto rende un'obbligazione greca e un'obbligazione tedesca scende sotto il 7%. Il superindice dell'OCSE oggi diffuso vede un segnale di rallentamento anche in Italia, per cui risulterebbe un quarto mese consecutivo di economia stagnante, 0,2 punti in meno. L'Italia, assieme ad altri sei paesi, ha prospettive di forte rallentamento. I sei paesi sono Canada, Francia, Gran Bretagna, Brasile, Cina e India. Buone invece le prospettive dell'area OCSE per Stati Uniti, Germania, Giappone e Russia. Allora, poi il dato sulla produzione industriale. Attenzione a prenderlo con le pinze, perché è un più 9,5% ad agosto è in massimo dal 1997 la produzione industriale italiana, però su questo aumento pesa l'effetto delle chiusure estive che di anno in anno variano a seconda delle politiche aziendali. Buono invece il dato dei primi 8 mesi del 2010 rispetto ai primi 8 mesi del 2009, più 5,9%, più 6%. Chiaro che avendo perso la produzione industriale il 25% nel 2009, con questo tasso ci vogliono altri 3-4 anni per recuperare i livelli del 2007-2008. Allora, volete sapere se il dollaro è un nuovo minimo con lo yuan? È una bella notizia. No, è una bella notizia per gli americani, ma l'euro resta molto forte con la valuta cinese. Il problema in questo momento è che l'unica valuta forte, oltre allo yen, è l'euro. Il Giappone è molto preoccupato, l'Europa anche, ma il Giappone ha un governo e può intervenire subito. L'Europa non ha un governo e abbiamo visto, insomma, quanto ci vuole poi a mettere assieme i vari paesi. Dicevamo della produzione industriale. Allora, visto che siamo in tema, io vorrei far sentire il commento che ha dato oggi il presidente della piccola industria di Confindustria, Vincenzo Boccia, che è anche vicepresidente di Confindustria, proprio su questi dati Istat. La dice lunga sulla capacità reattiva e di velocità di uscita dalla crisi del tessuto imprenditoriale e industriale italiano. Abbiamo bisogno che vengano rimossi immediatamente molti vincoli allo sviluppo e alla crescita, perché la cosa che fa più paura, o se volete vista in maniera ottimistica, sono le potenzialità che potremmo esprimere con una politica fiscale più vicina al mondo delle imprese e dei lavoratori. Ecco, ci sono dei settori che vanno meglio? O diciamo che è una... Dei settori sono i nostri classici, quelli che hanno tenuto meglio durante la crisi, e sono la moda e l'agroalimentare, ma in realtà dall'analisi che anche emergerà a Prato, più che di settori esistono aziende innovative in tutti i settori, più che aziende di settori in particolare. Sono proprio queste aziende forti e innovative che dovranno lanciare, come dire, la sfida alla reazione e alla velocità di uscita dalla crisi del paese. E di piccola industria, delle capacità di reazione della nostra industria si parlerà questo fine settimana, venerdì e sabato, a Prato, nel convegno annuale organizzato proprio da piccola industria di Confindustria, con l'obiettivo di, da un lato, mostrare la capacità di reazione anche delle piccole e medie industrie italiane, dall'altro però capire quali meccanismi possono scattare per aiutarle nella internazionalizzazione. Lo continuiamo a dire anche noi, infatti non c'è speranza se non si aggancia l'export per la ripresa italiana. Le piccole, con tutti i pregi che hanno, sono piccole anche nella capacità di investire sulle reti lunghe, sulle filiere, e allora lì ci vuole, da un lato ci vogliono degli organismi istituzionali italiani in primo luogo che le aiutino, vantaggi se vogliamo anche fiscali, dall'altro devono anche agganciare la filiera delle medie e grandi imprese. Dicevo, di questo si parlerà a Prato. Sentiamo qualche anticipazione sempre dal presidente della piccola industria e Confindustria sul 12° forum della piccola industria. Abbiamo recuperato questo convegno, che diventa un appuntamento biennale a Prato, ha una sua significatività anche simbolica, dove parleremo appunto delle nuove rotte geografiche e mentali. Geografiche perché ormai la ricchezza dei paesi che continuano a crescere in maniera elevata è molto più lontana dai paesi che tradizionalmente conosciamo, parliamo di Brasile, di India, di Cina, e quindi un riposizionamento geografico dell'export italiano insieme al riposizionamento di prodotto e di servizi è l'elemento importante e la precondizione per uscire velocemente dalla crisi e passare dal resistere al reagire. Parleremo anche di finanza strategica e ci confronteremo sulla politica industriale regionale e nazionale del paese. E su questo lasciateci fare un po' di promozione. Ci sarà anche un intervento importante del gruppo Sole 24 Ore, perché praticamente un primo numero sarà in edicola il 25 di ottobre. Una nuova iniziativa editoriale, la sentiamo dalla voce dell'amministratore delegato del gruppo Donatella Treo, che ha per obiettivo proprio le piccole e medie imprese italiane. Sarà in edicola il 25 ottobre ed sarà un numero completamente rinnovato, perché abbiamo inteso sfruttare questo giorno per dare una grande attenzione a tutte le tematiche rilevanti per le piccole e medie imprese e per i professionisti. Da sempre il legame storico tra piccole e medie imprese e quotidiano, e mi lasci dire intervento che il gruppo Sole 24 Ore fa, è molto serrato, ma vogliamo renderlo ancora più pratico e operativo, ovvero il lunedì si rinnova nelle sezioni esistenti e aggiungendo altre tematiche, proprio per riuscire ad essere il punto di riferimento per tutti i problemi di natura gestionale, di natura informativa. Quindi vuole essere in grado di supportare lo sviluppo che le PMI dovranno avere e soprattutto le modalità con le quali affrontare la crisi nelle quali oggi versa la nostra economia e diventare un supporto utile e concreto. E adesso entriamo a bomba nel primo tema, la guerra delle valute, ma anche le diverse vedute tra il ministro dell'economia Giulio Tremonti e il governatore della Banca d'Italia, nonché presidente del Financial Stability Forum, Mario Draghi. Eh sì, perché insomma non si può non notare giudizi, adesso li facciamo ascoltare uno dopo l'altro, ma insomma giudizi molto diversi. Nel giorno in cui appunto Oliver Stone presenta a Roma il suo nuovo Wall Street, il Papa ricorda che i capitali anonimi divorano il mondo, e in cui parleremo poi più avanti anche delle valutazioni messe dal fondo, insomma, il ministro Tremonti ha detto in maniera molto chiara: i bankers, cioè i banchieri d'affari, quelli che molti individuano come gli speculatori, Gordon Gekko evoluti, e che fanno sembrare anche Oliver Stone il suo primo personaggio ormai vecchio, al di fuori di un mondo che è andato via via, secondo lui, degenerando. Dicevo, il ministro dell'economia Giulio Tremonti ha detto: i banker sono tornati, la speculazione è a piede libero e i bonus che si stanno distribuendo ai manager bancari sono superiori a quelli di prima. Non sto parlando dei banchieri italiani, però i bankers sono tornati. Due anni fa non c'erano bankers. L'anno scorso a Istanbul erano piuttosto low profile. Questa volta i banchieri sono tornati. Le grandi banche d'affari sono tornate. È a piede libero la speculazione. I derivati sono la stessa massa di prima della crisi, i bonus sono uguali a quelli di prima della crisi, forse anche di più. I banchieri sono tornati con il loro imponente apparato di alberghi, feste e ricevimenti. E infatti da più parti abbiamo segnalato comunque anche noi livelli record nei junk bond, le obbligazioni spazzatura, collocati da gennaio 275 miliardi di obbligazioni spazzatura, più 58%. Ancora per quello che riguarda il compenso dei manager, so che questa cosa fa arrabbiare molti, ma insomma nel 2009 a Wall Street hanno fatto più 20% rispetto al 2008, non hanno manco percepita la crisi, 140 miliardi di dollari. Pensate, Bank of America salvata dal cittadino americano, 30 miliardi di bonus, 63% in più rispetto al 2008. JP Morgan, 30 miliardi di bonus, più 30%. Citigroup, altra banca salvata dai cittadini americani, si è distribuita 22 miliardi, Goldman Sachs idem 22 miliardi, più 100%, Morgan Stanley 16 miliardi. Cosa dobbiamo fare? Se non continuare a dirlo, non la pensa così però il governatore della Banca d'Italia Mario Draghi, che ha detto: attenzione, c'è un ritorno alle pratiche di prima della crisi, ma il ritorno ai bonus pre-crisi, ai bonus dei manager sui livelli pre-crisi è limitato. Direi che non siamo tornati indietro. Ci sono comportamenti di questo tipo, non sono generalizzati, c'è molta volatilità nei mercati, ci sono dei rischi macroeconomici, insomma bisogna dare un po' di contenuto, ecco, a queste espressioni. Poi c'è molta volatilità nei mercati, questo indubbiamente, e questo è un po' anche l'effetto dei discorsi che facevamo prima, gli squilibri globali creano volatilità. Però insomma, dal punto di vista del controllo dei rischi, le banche hanno fatto grossi progressi a riguardo. Oh, quando noi andiamo a vedere invece la situazione, altre cose, tipo le remunerazioni che ci sono nel sistema bancario, c'è indubbiamente un ritorno a pratiche precedenti alla crisi, però è molto limitato, e le banche nella loro generalità oggi allineano le remunerazioni e i rischi che vengono compresi molto meglio di quanto non facessero prima della crisi. Quindi insomma la riforma del sistema finanziario, la riforma della regolamentazione finanziaria non è un'impresa finita, per niente, è un'impresa che continua e si è fatto molto progresso, ma c'è ancora molto da fare. Le linee fondamentali di questa riforma sono state in un certo senso tracciate, accettate anche al più alto livello politico. E ora quello che occorre fare è metterle in atto. Diversi sono i giudizi, ha detto attenzione, Draghi bisogna anche riempire di contenuti certe affermazioni, riferito a quelle di Tremonti, non è vero che tutto è come prima, anzi i bonus sì, in alcuni casi sono molto limitati, non siamo tornati indietro e in questo momento le remunerazioni sono allineate molto di più alla gestione dei rischi. Diamo così, diciamo, pochi hanno pagato tra i grandi manager delle banche d'affari. Detto questo, sentiamo di nuovo Giulio Tremonti, Ministro dell'Economia, e Mario Draghi, Governatore della Banca d'Italia, su un'altra cosa su cui la penso in maniera molto diversa, cioè la cosiddetta guerra dei cambi. Nella giornata in cui il dollaro oggi tocca il nuovo minimo sullo yen a 15 anni, il nuovo minimo anche sullo yuan, l'euro sempre 1,40, mettiamo uno dopo l'altro, prima il Ministro dell'Economia e poi il Governatore della Banca d'Italia. Il mostro di oggi è quello dei cambi, il confronto tra tre grandi blocchi continentali, l'Asia, la Cina con la sua moneta, l'Europa con la sua moneta, l'America con la sua moneta. Ecco, quello dei cambi è un punto fondamentale. Il cambio giusto stabilizza, il cambio sbagliato destabilizza, perché noi non possiamo più esportare. Basta un pezzettino di cambio sbagliato per spiazzare l'industria italiana, per esempio. Questo è il grande problema che abbiamo oggi. Non ci sono guerre di valute. Questi disallineamenti, una brutta parola che però è quello che esistono, vanno affrontati lungo queste due direttrici: risolvere gli squilibri macroeconomici sottostanti e arrivare a un processo in cui non ci sono manipolazioni di cambi. Questo è possibile, certo che è possibile. Bisogna stare attenti a evitare, come ho detto l'altra volta, anche rimedi che sono peggiori del male. Qual è la probabilità che questi rimedi vengano adottati oggi? Non dimentichiamoci che nel 29 avvenne proprio questo. Per uscire dalla prima ondata della grande crisi del 29 ci fu una rincorsa al protezionismo che portò a una ricaduta molto ancora più forte della crisi. Quindi è probabile questo oggi? No, non è assolutamente probabile. Da allora, e anche sulla base di quella lezione, c'è una cooperazione internazionale fatta di istituzioni finanziarie internazionali, in primo luogo il Fondo Monetario, ma anche altre, pensate al WTO, per la risoluzione di queste controversie, e c'è soprattutto l'intento unanime, concorde, di ricorrere alla cooperazione internazionale, cioè a uno schema multilaterale e non unilaterale, per risolvere questi problemi. Allora, in collegamento da Washington c'è l'inviato del Sole 24 Ore, Alessandro Melli. Alessandro, buonasera. Sì, buonasera. Ti farei ascoltare anche un ulteriore passaggio, poi con te ragioniamo anche del fallimento di questo tentativo del Fondo Monetario di trovare un accordo sulla guerra valutaria. Però un altro passaggio per chiosare poi della diversità di vedute di Giulio Tremonti e Mario Draghi. In questo caso l'oggetto è l'Italia. Tremonti dice migliorerà la crescita, ulteriore miglioramento della crescita italiana. Draghi dice insomma coniugate crescita e austerità. Di nuovo. Noi sì, abbiamo avuto un secondo trimestre abbastanza buono e un terzo trimestre invece meno buono. In Europa la situazione è questa: abbiamo una Germania che cresce molto, e cresce molto basata sulle esportazioni, ma per la prima volta anche su componenti della domanda interna, cioè consumi e investimenti. Il resto d'Europa, soprattutto direi in misura minore forse la Francia, ma l'Italia sicuramente, cresce a rimorchio della Germania, va dietro la Germania. Certo, tornando un attimo alla Germania, il nostro obiettivo dovrebbe essere quello di coniugare crescita con austerità di bilancio. Questo dovrebbe essere il nostro obiettivo e certamente da quel punto di vista la Germania è un grande esempio. Allora, di nuovo la Germania, questo paragone fa sempre infuriare il ministro Tremonti. Lei da che parte sta, chiedono gli ascoltatori? Beh, sicuramente non dalla parte dei compensi ai manager delle banche e a questi più 30, più 20% che nel 2009 le banche si sono distribuite. Questo abbiamo detto mille volte, noi riteniamo che lì vi sia una casta e lobby trasversale così potente da paralizzare lo stesso Barack Obama, visto che lui ha la quinta colonna interna che si chiama Timothy Geithner, che è ufficialmente il suo ministro dell'economia, però sostanzialmente uomo di Wall Street, che lì deve tornare, tutti tengono famiglia, attenzione. Alessandro Merli, voglio anche la tua di opinione sui bonus, il ritorno della speculazione, l'opinione che tu hai raccolto stando in questi giorni al Fondo Monetario Internazionale. Ti chiedo solo di pazientare qualche minuto perché abbiamo il meteo e la pubblicità, poi il tuo commento su questo e sul perché invece poi del fallimento vero e proprio della guerra valutaria, oggi lo vediamo, della pace valutaria, vediamo di nuovo forti tensioni sui cambi. 349-238-6666 per gli sms. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, Alessandro Merli, intanto diciamo come la pensi tu e quello che hai raccolto sia sulle speculazioni sia sulla guerra valutaria e i bonus, prego. Ma la questione dei bonus, mi sembra chiaro che Draghi giustamente difende il suo operato come Financial Stability Board di aver cercato di fissare dei paletti e mettere delle regole a questi bonus che erano diventati chiaramente eccessivi prima della crisi. È anche vero che la Banca d'Italia queste regole le ha già messe in atto e quindi le banche italiane, dove peraltro non c'erano gli eccessi che ci sono altrove, hanno risposto a queste regole. Non dappertutto le regole dell'FSB sono state messe in atto e, come sottolineavi, naturalmente in certi paesi il potere delle lobby bancarie e finanziarie è più forte che in altri e quindi c'è una resistenza. C'è da dire un'ulteriore cosa, è importante, come diceva anche Draghi, credo che qui Draghi abbia ragione, che il discorso bonus sia legato non solo, non tanto al livello assoluto dei bonus o al loro tasso di crescita rispetto agli anni precedenti, ma al fatto che questi bonus non siano strutturati in modo da incentivare le banche ad assumere dei rischi che poi ne mettano in pericolo. Sì, non troppo legati ai risultati a breve, dici tu, e quindi a speculazione anche. È chiaro che se io pago il banchiere con un bonus, indipendentemente dal rischio che assume, dal fatto che poi magari fra un anno o due le operazioni che ha fatto saltino in aria con il rischio di fare saltare in aria a sua volta la banca e poi devono intervenire i contribuenti per salvarla, è chiaro che lì c'è qualcosa che non va. Quindi l'importante è che le regole limitino, diciamo, questo incentivo a un'assunzione eccessiva di rischio. Per quello che riguarda, ecco, veniamo invece al vero tema. Beh, questa insomma è una diversità di vedute che poi riproporremo ascoltando anche Oliver Stone, ascoltando anche altre, l'avvocato che ha vinto le cause contro Lehman, Cirio, Parmalat. Insomma, noi non dimentichiamo, mettiamola così, però perché sennò saremmo anche un po' in qualche modo superficiali. Ma veniamo al fallimento totale di questo Fondo Monetario Internazionale. Cioè, vi siete visti a Washington, sta per iniziare l'Indian Summer, molto carina, molto bella, ma a che è servito? Ma come sempre è difficile fare del coordinamento a cui faceva richiamo Draghi quando gli interessi nazionali sono così divergenti e quindi in tutti questi casi si parla poi di fallimenti di queste riunioni, ma credo che fosse un fallimento annunciato, nel senso che quando l'interesse degli Stati Uniti di rilanciare l'economia che sta crescendo in modo molto anemico si scontra in modo così netto con quello dei cinesi invece di continuare a perpetrare questo modello di crescita che finora ha funzionato per loro molto bene, cioè un modello basato sostanzialmente sull'esportazione, quindi su un cambio che va tenuto artificialmente basso, è chiaro che è difficile poi trovare un punto di raccordo. Il coordinamento va bene quando più o meno gli interessi coincidono, quando sono così distanti coordinamento non c'è. Casomai stupisce il fatto che i toni siano diventati così duri, soprattutto fra Stati Uniti e Cina, molto molto duri. Poi l'America si è rimessa a fare quantitative easing, cioè si è rimessa la banca centrale americana, probabilmente andrà a comprare stampando dollari obbligazioni americane, per cui insomma in questo andrà ulteriormente a indebolire il dollaro. Vuoi commentare, perché ci vorrei far ascoltare il commento che abbiamo realizzato sui premi Nobel, visto che tu nel momento in cui qua si discute di cambi valutari, di banchieri, di bonus, l'Accademia di Stoccolma dà i premi Nobel all'economia a tre studiosi che sono occupati sostanzialmente di mercato del lavoro. È Alessandro Melli, tu che hai seguito a lungo anche questi temi, un segno del cambiamento dei tempi. Prima i Nobel li vinceva chi si occupava del mercato finanziario, asimmetria informativa, sta roba qua. Ma diciamo che i Nobel sono sempre stati assegnati in modo molto eclettico, no? E quindi una volta, come dicevi, magari a chi ha studiato i mercati, altre volte a chi si è occupato di altre tematiche, per esempio Krugman, che è uno studioso del commercio internazionale. Voglio dire, anche negli ultimi anni la scelta dei temi di chi si è occupato di finanza comportamentale, quindi di cose molto molto diverse. Forse è un segno dei tempi il fatto che si tratti di tre studiosi dei problemi del mercato del lavoro e quindi della disoccupazione, nel momento in cui uno dei problemi più pressanti dell'economia mondiale è quello che stiamo avendo una ripresa più forte nei paesi emergenti, più fragile nei paesi avanzati, quindi Europa, Stati Uniti e Giappone, che comunque non crea posti di lavoro, la cosiddetta jobless recovery. Quindi forse è un segnale interessante. C'è anche una curiosità, sì. Uno dei tre assegnatari del premio Nobel, Peter Diamond dell'MIT, è anche un economista che era stato suggerito o indicato dall'amministrazione Obama per occupare uno dei posti vacanti nel Consiglio della Federal Reserve, e il Congresso americano non ha bocciato, ma di fatto ha rinviato per così tanto tempo la sua nomina che adesso si è bloccato tutto con la campagna elettorale per le elezioni di midterm. Quindi curioso questo fatto, no? L'economista è abbastanza bravo da poter prendere il Nobel, ma non abbastanza da avere il consenso del Congresso americano, come insomma ci dimostra il fatto ancora una volta che la politica molto spesso prevale sulle considerazioni di merito. E questo purtroppo è un vizio non solo americano. Grazie Alessandro Melli, il traffico. Focus Economia. E ascolteremo di nuovo in diretta con alcuni commenti su questi premi Nobel. Vorrei però adesso fare la pagina di borsa e poi arrivare appunto a un commento sulle teorie sul mercato del lavoro, incrocio tra domanda e offerta, aziende che chiedono lavoro e invece disoccupazione in aumento da un lato e politiche economiche per questo. La borsa, dicevamo oggi, questa mattina Tokyo era chiusa. Devo dire che non c'è molta notizia in borsa, l'America è invariata, Francoforte più 0,2, Parigi più 0,1, Londra più 0,2, Milano più 0,4. Fa notizia invece il titolo Bulgari, perché con un euro fortissimo, un dollaro debole, Bulgari, che vende moltissimo nel mercato dell'area dollaro, ha comunque guadagnato il 5%, che non è poco alla luce di questo, e siamo allora in collegamento come sempre con Radio Corriere sulle 24 ore. Ciao Condina, buonasera. Buonasera a voi. Allora, Bulgari. Bulgari Superstar ha guadagnato, è stato il migliore delle blue chip milanesi, ha toccato i massimi degli ultimi 2 anni. A spingere il gruppo è stato soprattutto l'andamento del lusso europeo, che è stato a sua volta spinto dal balzo della Svizzera Richemont, che come sappiamo fa gioielli, che ha guadagnato il 2,75 sul listino di Zurigo grazie alle ottime indicazioni sui dati di quest'anno. Questo ha spinto a sua volta sia Bulgari sia LVMH sul listino di Parigi e poi a tutte le aziende del lusso in Europa. Quindi il settore lusso al di là del dollaro, vedo alcune domande sul dollaro. Allora, attenzione, la Cina ha non metà, ma quasi tra un terzo e metà del debito americano, cioè ha comprato obbligazioni americane. È uno dei modi con cui tu puoi tenere alto il rapporto di cambio, visto che molti ci chiedono, è se tu compri dollari e vendi yuan, è chiaro che tieni basso il valore del yuan. Cioè, fine. Che se comprasse più valuta cinese e vendesse dollari, calerebbe ulteriormente... Se comprasse, scusatemi, dollari in altro modo, riuscirebbe ad aumentare anche il rapporto di cambio. Però attenzione, vedo un po' di confusione nei messaggi, chiudo poi la parentesi. L'America ha il problema è che il yuan è troppo forte e il dollaro troppo debole nei confronti scusatemi, che il yuan è troppo debole e il dollaro troppo forte nei confronti della valuta cinese. Altra cosa è il caso dell'euro, cioè nell'euro abbiamo un caso opposto, è il dollaro a essere troppo debole e l'euro a essere troppo forte. E allora l'America vorrebbe che la Cina abbassasse, alzasse il valore della sua valuta in modo da avere un dollaro un po' più debole e quindi esportare un po' di più e avere un freno anche all'esportazione di prodotti cinesi. Chiusa la parentesi, torniamo sui titoli. Mediobanca bene, più 1,90, Exor più 4%, Exor e Mediobanca. Sì, Exor beneficia delle indiscrezioni di stampa pubblicate nel weekend su un'eventuale possibile conversione delle azioni Fiat risparmio e privilegio in ordinaria, insomma un'indiscrezione che ha spinto ovviamente anche le azioni Fiat risparmio e privilegio, che potrebbe presagire un riassetto in tutta la galassia Agnelli, di cui beneficerebbe anche Exor, che dunque guadagna il 4%. Per quanto riguarda Mediobanca, più 1,9% a fronte di un sistema bancario che oggi è stato piuttosto debole Piazza Affari, in questo caso valgono, diciamo, vale la bozza di bilancio 2009-2010 diffusa da Mediobanca venerdì, che darebbe un risultato operativo comunque migliore rispetto all'anno scorso. Ancora tra i titoli, Fondiaria Sai, dopo l'acquisto del Bolloré, le voci che vogliono, insomma, Groupama interessata, Fondiaria Sai, anche oggi più 1% alla fine Fondiaria Sai. Bene Fiat più 1,90, Prismian più 2,33, Atlantia più 1,80, Unipol più 1,7 come Geox, 1,5% Steam Microelectronics e CIR, l'1,1 l'automatica Ansaldo e l'1% guadagna anche Snamret e Gas. Fronte opposto, Popolare di Milano meno 1,5, Mediolanum meno 1,1. Farei Popolare di Milano, che domani ha un CDA, un consiglio di amministrazione straordinario per l'offerta sul Monte Parma, da un lato, e dall'altro vedo di nuovo la Lazio molto bene, più 12,5, PMS meno 4,91%, Brembo dall'altro lato. Quindi Fondiaria Sai, Popolare di Milano, scusami, e Brembo. Popolare di Milano, sì, l'hai detto tu, domani è un CDA straordinario che valuterà se sarà il caso di fare un'offerta appunto su Monte di Parma. In questo caso tra gli operatori prevale l'interpretazione che un'offerta su Monte di Parma è comunque un esborso di denaro, in un momento comunque per Banca Popolare di Milano di tensione sui tassi, come ha ammesso la stessa banca in occasione della pubblicazione dei dati finanziari, e dunque il titolo è stato penalizzato. Per quanto riguarda Brembo invece c'è in primo piano l'accordo annunciato oggi per la fornitura di freni alla Suzuki e quindi un potenziale aumento del fatturato in Giappone e un aumento in borsa di oltre 1%. Grazie, buon lavoro a te e ai colleghi di Radio Coro, il Sole 24 Ore. Allora, non è la sigla questa di chiusura del programma, vorrei invece far ascoltare l'intervista che la nostra Deborah Rosciani, se mi è bastata la sigla, grazie. Deborah Rosciani ha realizzato con Francesco Daveri, che è docente di politica economica all'Università di Parma, proprio sulle motivazioni che hanno portato l'Accademia di Stoccolma a far vincere il Nobel a Peter Diamond, Dale Mortensen e Christopher Pissarides, mercato del lavoro e politiche per il lavoro. Rispetto agli anni passati c'è stato, soprattutto all'anno passato, che è stato il 2009, quindi l'anno della crisi più nera, c'è un cambiamento molto evidente. L'anno scorso il Nobel sembrava che avesse il sottotitolo Abbasso il mainstream, cioè via l'economia, buttiamo via tutto e diamo il premio a delle persone come Olinor Ostrom e Oliver Williamson, che hanno studiato degli aspetti che c'entravano molto poco con la microeconomia e la macroeconomia tradizionale. Quest'anno invece mi sembra che siamo ritornati un po' sul mainstream, ovvero sia a dare un premio a degli economisti che tutti riconoscono come degli economisti tradizionali, anche se estremamente innovativi. Qual è la portata innovativa, se c'è, nelle loro nuove metodologie di analisi applicate al mercato del lavoro, il loro studio sulle variabili che influenzano la disoccupazione? I tre economisti premiati, Diamond, Pissaridis e Mortensen, hanno tutti studiato una cosa che si chiama teoria della ricerca del lavoro, che di questi tempi sembra proprio una cosa, insomma, che viene bene, nel senso che quello che hanno fatto loro grosso modo dall'inizio degli anni Ottanta in poi è stato di innovare profondamente il modo in cui gli economisti capiscono il mercato del lavoro. Prima la disoccupazione era solo divisa in volontaria, un po' come se uno se la andasse a cercare, oppure keynesiana, ovvero sia una disoccupazione causata dal fatto che gli affari andavano male nell'economia. I tre Nobel di oggi sono i primi che hanno cominciato a dire: beh, in realtà alcune volte osserviamo simultaneamente tanti disoccupati eppure anche tanti posti di lavoro che non riescono a riempirsi, un segno di un inefficiente, come lo chiamano loro, matching, cioè incontro di domanda e offerta, un segno che le abilità che magari sono richieste dalle aziende non sono proprio le stesse che la scuola e l'università offrono al mercato del lavoro. Così appunto Francesco D'Averio, il microfono della nostra Deborah Rosciani. Adesso c'è il GR, poi parliamo di speculazione, di Tremonti, del film di Oliver Stone e dell'avvocato che ha vinto il maggior numero di cause contro le banche. E vi rifaccio anche il ragionamento sulle valute, perché per colpa mia alcuni non hanno capito. Chiedo venia, GR e poi di nuovo Focus Economia, 349-238-6666 per i vostri sms. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per parlare adesso di speculazione, i banchieri che sono tornati a fare quello che facevano prima, in coincidenza con la dichiarazione del ministro Tremonti dell'uscita del film di Oliver Stone e del nostro ospite, che è l'avvocato che ha vinto 170 cause contro le banche. Ha recuperato 60 milioni di euro dai crack Argentina, Cirio e Parmalat e ha riportato la prima vittoria su delle obbligazioni di Lehman Brothers. Volete che chiarisca, avete ragione, i rapporti, la guerra valutaria è in corso. È molto semplice in realtà. L'America ha un dollaro troppo debole per quello che riguarda l'Europa nei confronti dell'euro e troppo debole per quello che riguarda il Giappone nei confronti dello yen. È una situazione opposta invece a quello che viene contestata dagli americani alla Cina, e cioè è il renminbi, il yuan, a essere troppo debole nei confronti del dollaro, che in quel caso è troppo forte, e l'America vorrebbe, ma anche l'Europa, che la Cina aumentasse il valore della sua valuta per non godere di un ulteriore vantaggio competitivo, visto che già ha dei costi bassissimi, e perché per riequilibrare l'andamento della bilancia commerciale. Questa è la situazione. Quello che è certo è che se il dollaro riesce perlomeno a indebolirsi nei confronti della yen e nei confronti dell'euro, chi non riesce mai a indebolirsi, e ci vorrebbe un euro un po' più debole, è proprio la moneta unica, che è forte nei confronti di tutte le valute, chiamiamole così, concorrenti. Adesso però l'ultimo tema di questa puntata è un unico grande tema: la speculazione finanziaria da un lato e dall'altro invece come si fa a vincere le cause contro le banche. Non sto parlando dei banchieri italiani, però i bankers sono tornati. Due anni fa non c'erano bankers, l'anno scorso a Istanbul erano piuttosto low profile, questa volta i banchieri sono tornati, le grandi banche d'affari sono tornate. A piede libero la speculazione, i derivati sono la stessa massa di prima della crisi, i bonus sono uguali a quelli di prima della crisi, forse anche di più, i banchieri sono tornati con il loro imponente apparato di alberghi, feste e ricevimenti. Direi che non siamo tornati indietro. Ci sono comportamenti di questo tipo, non sono generalizzati. C'è molta volatilità nei mercati, ci sono dei rischi macroeconomici, insomma, bisogna dare un po' di contenuto, ecco, a queste espressioni. Poi c'è molta volatilità nei mercati, gli squilibri globali creano volatilità, però insomma dal punto di vista del controllo dei rischi le banche hanno fatto grossi progressi a riguardo. Quando noi andiamo a vedere invece la situazione, altre cose tipo le remunerazioni che ci sono nel sistema bancario, c'è indubbiamente un ritorno a pratiche precedenti alla crisi, però è molto limitato. Questo, se vogliamo, il botta e risposta tra il ministro dell'economia Giulio Tremonti e il governatore della Banca d'Italia Mario Draghi. Sono tornati i banchieri, è tornata la speculazione, sono tornati anche i bond spazzatura, le obbligazioni ad altissimo rischio. Più 58% da gennaio i collocamenti di obbligazioni di spazzatura junk bond pari a 275 miliardi di dollari. E poi il Papa che oggi dice invita i cristiani ad abbattere queste false divinità. Quali sono le false divinità? Tra le altre cose anche i capitali anonimi e la vita immorali, i capitali anonimi. Che cosa ne pensa della immoralità dei capitali anonimi? Oliver Stone, che dopo 23 anni è tornato a produrre il sequel di Wall Street, è una Wall Street diversa, il denaro non dorme mai. Gordon Gekko è praticamente ha anche un ruolo non solo negativo ma anche positivo, non voglio svelarvi la trama, ma sentiamo il giudizio che ha dato oggi a Roma Oliver Stone in conferenza stampa sulle banche d'affari. Immagino che si riferisca appunto alle banche d'affari, i primi ladri del sistema. Il sistema è sotto cura, è come se fosse un paziente che si sta curando. L'espressione too big to fail, troppo grande per fallire, generalmente significa che prima o poi qualcosa fallirà. Molti si sono chiesti se fosse giusto salvare le banche nel 2008 e molti nell'industria finanziaria hanno risposto che era giusto, altrimenti l'intero sistema sarebbe crollato, sarebbe scoppiata la bolla del credito. Io però ho forti dubbi sul fatto che fosse giusto salvare le banche. Per me questo film è stata una grande sfida e se avessi voluto semplicemente fare un sequel per soldi, lo avrei fatto negli anni 90, quando ancora i protagonisti di quella generazione erano là. Ho deciso di fare questo film adesso per raccontare quello che è successo. Negli ultimi anni abbiamo vissuto al di sopra dei nostri mezzi. Le banche sono diventate esattamente quello che era Gekko nel primo Wall Street. Individui spietati che giocano con i soldi della gente. C'è un passaggio del film in cui Douglas dice al personaggio interpretato da Shia LaBeouf che la prossima bolla sarà verde, sottintendendo che scoppierà un'altra bolla. Il capitalismo ha bisogno delle bolle, come quella dei tulipani. Il capitalismo ha bisogno di cose che siano affascinanti ed eccitanti, ma allo stesso tempo è anche un segnale di una grande patologia. Il capitalismo ha bisogno di bolle. Per carità, ci sono libri bellissimi su questo, un secolo di bolle, ma un conto è un settore, come può essere quello immobiliare o i bulbi di tulipano, o i chiodi di garofano o la noce moscata che diventano, che vanno fuori controllo nei prezzi. Altra cosa è una crisi sistemica come quella a cui abbiamo assistito 2 anni fa. Un po' di differenza tra la bolla internet e l'aver bloccato per alcuni mesi l'intera economia mondiale come è successo tra fine 2008 e inizio 2009. Comunque vedo anche molti messaggi su questo. Una nota, attenzione, noi non abbiamo mai detto 4 mesi fa che l'euro fosse troppo debole. Abbiamo ripetuto per intere puntate che l'euro a quota 1,15-1,20 era tutto tranne che debole. che il rapporto di cambio può tranquillamente essere a 1,1, e quindi adesso riteniamo assolutamente che l'euro a quota 1,40 sia troppo forte. Comunque, se i banchieri d'affari, gli squali, Gordon Gekko sono tornati, gli dei dell'Olimpo, e le obbligazioni di spazzatura corrono e si tornano a distribuire bonus, ci sarà, immaginiamo, ancora molto da lavorare per l'avvocato Angelo Castelli, che esercita a Formia. Buonasera, avvocato. Dopo il traffico, io vorrei capire come ha fatto a ottenere 170 vittorie contro le banche, recuperando 60 milioni di euro dai crack Argentina, Ciro Parmalat e Lehman Brothers. Caso per caso, in maniera molto sintetica, vorrei che ci aiutasse a capire qual è stata, diciamo, la linea di difesa che le ha permesso di recuperare questi soldi. 349-238-6666 per i vostri sms, a recuperarli chiaramente per i suoi clienti. Il traffico. Di nuovo in diretta con Sebastiano Berisoni, ultima parte di Focus Economia. Abbiamo già detto, lo dico a chi scrive al 349-238-6666, che alcuni di voi segnalano come il Vaticano, invece che criticare i capitali anonimi e immorali, dovrebbe guardare in casa propria. Mi sembrano due cose molto diverse, cioè non unirei la vicenda recente dello IOR con le dichiarazioni del Papa. Avvocato Castelli, obbligazioni argentine, Parmalat e Ciro, poi arriviamo a Lehman. Lei ha vinto quasi sempre contro le banche, non contro il governo argentino, no, o contro Parma. Un sequestro. No, no, ma andiamo, lei mi deve spiegare come ha vinto e che cosa ha ottenuto. Obbligazioni argentine, aveva dei risparmiatori che difendeva. Linea di difesa principale è quella della omessa informativa sul rischio, che in base al testo. Omessa informativa sul rischio, la sentiamo un po' male. Omessa informativa sul rischio, che in base al testo unico di finanza, in effetti, l'intermediario, in questo caso la banca, avrebbe dovuto dare al proprio investitore, al proprio cliente. In tutti quei casi dove non è stata data o è stata data in maniera insufficiente, in effetti vi è una responsabilità dell'intermediario, per cui deve provvedere a risarcire. Questo hanno stabilito in effetti i tribunali italiani, ormai con una giurisprudenza più o meno consolidata. Ecco, se può parlare a voce più alta, la sentiamo veramente male. Con questo hanno stabilito i tribunali italiani più o meno con una giurisprudenza ormai consolidata, ormai da 4-5 anni. Lo stesso per Parmalat, lo stesso in effetti, diciamo, per Cirio, la sentenza di... Infatti, in questione che è uscita oggi sul giornale riguardava proprio Cirio. Allora andiamo con ordine. Argentina, in tutti questi casi lei ha vinto perché il tribunale, quale tribunale tra l'altro? Un po' tutti i tribunali d'Italia, anche se maggiormente il tribunale di Roma. Ok, allora il tribunale ha stabilito che c'è stata una mancata informativa delle banche in merito al rischio sull'investimento e al peggioramento delle condizioni dell'Argentina. Quanto ha recuperato sull'Argentina? Ma oltre 40 milioni di euro. Ok. Sul Parmalat invece analogo riconoscimento del tribunale? Analogo riconoscimento, chiaramente per somme più modeste in effetti di recupero, ma il principio giuridico è lo quanto? Stesso. Quanto? Ma qualche milione di euro. Va bene, Cirio anche lì? Lo stesso qualche milione di euro in effetti, ed è sempre omessa o incompleta informativa sul rischio. Ecco, se ho ben capito, però nel caso di Cirio, che a mio avviso per alcuni versi quanto a responsabilità delle banche è anche più grave di Parmalat, perché lì si nota chiaramente come le banche esposte con Cragnotti l'anno dopo collocano le obbligazioni di Cirio e nello stesso tempo rientrano in tutte le loro esposizioni verso Cragnotti, e lo si vede da grafici pubblicati da Sole 24 Ore, non sono informazioni riservate, e quindi insomma il sospetto che tu abbia aiutato Cragnotti a collocare queste obbligazioni perché così lui ti ripagava i prestiti è un sospetto fortissimo. In questo caso, dicevo, lei ha vinto anche nei confronti, cioè è stata chiamata in causa anche la responsabilità del promotore finanziario? Esattamente, dove c'è una responsabilità solidale, perché si è riuscito a dimostrare in causa che non aveva informato il cliente nella fase dell'esecuzione del contratto, non vi era stata l'informativa del cliente, oltre da parte della banca, ma anche da parte del promotore finanziario. E per cui il collegio ha stabilito un principio di solidarietà, in effetti, e per cui solidarmente sono stati, diciamo, condannati alla restituzione di 620.000 euro. Ecco, quanto era questo, in questo caso 620.000 euro? 500, poi con interessi e rivalutazione si è arrivati a 620.000 euro. Quindi il suo cliente ha recuperato i 500.000 euro che aveva in obbligazioni Cirio? Sì. E anche 120.000 euro di interessi e spese legali. Veniamo all'ultimo caso, quello di Lehman Brothers. Perché lei lì, anche in questo caso, diciamo, la contrapposizione era con la banca, non con... Sì, la linea difensiva è diversa, perché per Lehman Brothers il discorso è diverso, essendo una A la Lehman Brothers, l'attacco alle banche è di, sul piano giuridico è di natura diversa. Io ho ottenuto il primo rimborso in Italia, tutt'oggi, per quanto riguarda Lehman Brothers, e costituisce in effetti, diciamo, il fatto che la banca era un prodotto, innanzitutto una polizza liquid. Dove nelle non ho capito, innanzitutto una polizza... Innanzitutto il prodotto finanziario era una polizza liquid, okay, che aveva come sottostante rapporto strutturato una obbligazione Lehman Brothers. Chiaramente era stato stabilito il capitale, per cui vi era un'omessa, diciamo, nel contratto, un'omissione, perché in effetti colui che aveva stipulato, in questo caso il mio cliente, si era trovato l'altra parte inadempiente, perché il capitale non l'aveva più ottenuto e non aveva ottenuto nemmeno la restituzione dal momento che il rapporto sottostante alla polizza liquid gli era un'obbligazione Lehman Brothers, per cui chiaramente non poteva ottenere nulla da parte dell'intermediario della banca, la quale ha risposto la Lehman: siccome c'era nel rapporto sottostante la Lehman, non possiamo restituirti, dimenticandosi che era capitale garantito. Per cui da questa impostazione tu avendo... Come si chiama la banca italiana? Non ho capito, scusi. Come si chiama la banca? Guardi, adesso io... Glielo dico io, lei, perché sono preparato ogni tanto. Si chiama Network Investimenti. Esattamente, Network Investimenti. Ecco, allora, mi faccia capire però una cosa. Questa era una polizza linked, ne parliamo spesso a Salvadanaio, ci sono equity linked, index linked, cioè sono polizze che in realtà si muovono su un sottostante che può essere un indice, in questo caso era l'obbligazione Lehman Brothers. Voi avete sancito il principio per cui in realtà comunque doveva rispondere la banca che questa polizza aveva collocato, anche se poi Lehman Brothers era fallita, ho capito bene, avvocato? Contratto il capitale. Ho un'ultima domanda per lei, che in realtà ci arriva anche dagli ascoltatori. Ma se lei ha vinto 170 cause per Argentina, Cirio, Parmalat, Lehman Brothers, con un principio che sembra abbastanza naturale, cioè si va a vedere se la banca avesse correttamente informato il cliente dei rischi che si prendeva, secondo lei perché i suoi colleghi non fanno altrettanto? Cioè, è in realtà così facile? Beh, la materia è abbastanza complessa, il diritto finanziario è una materia di nicchia. Io posso rispondere per me con queste considerazioni, poi non sono nel cervello degli altri. Chiaramente posso dire che è una materia di nicchia, e io mi trovo facilitato perché, diciamo, è una materia a cui faccio ricerca anche a livello universitario. Sono assistente all'Università di Cassino, alla facoltà di giurisprudenza di diritto finanziario. Qui c'è un cocktail di situazioni. Poi questo lo dovrebbe domandare agli altri, non a me, ecco, che ho ottenuto il risultato. Allora, vedo che ci sta chiamando il legale della banca a cui lei avrebbe da cui lei avrebbe ottenuto il rimborso da Lehman Brothers, che è Network Investimenti. Allora, facciamo una cosa, siccome ho già Giuseppe Cruciani qua, in attesa che arrivi l'avvocato, che vediamo se in due minuti riusciamo a prenderlo, noi ci stiamo occupando, Giuseppe, di rimborsi e di crack di risparmiatori. I temi tuoi ancora... Beh, le polemiche politiche sulla vicenda dell'Afghanistan, ancora sulla vicenda invece di Saraskazi, e poi, come al solito, il teatrino quotidiano della politica. E tra l'altro annuncio che domani alle 24 avrà uno speciale proprio per seguire i funerali delle vittime afghane. Grazie Giuseppe Cruciani. Allora, avvocato Lucio Di Gaetano, buonasera. Buonasera. Guardi, abbiamo due minuti, se lei vuole replicare, volentieri, visto che ha chiamato praticamente in diretta. Sì, ho chiamato perché questo legale continua a rilasciare dichiarazioni trionfalistiche su questa vicenda di Lehman, e io vorrei metterci il punto una volta per tutte. Sì, però allora, in due minuti. Sì, sì, in mezzo. Io sono il legale interno, quindi il responsabile dell'ufficio legale della banca. Noi abbiamo fatto una transazione con il cliente dell'avvocato Castelli prima ancora di costituirci in giudizio, quindi non abbiamo proprio preso in esame l'atto di citazione. L'iniziativa è stata fatta a scopo commerciale ed è stata seguita da un'iniziativa che prevede il rimborso del 100% del capitale a tutti i nostri clienti che hanno comprato polizze con sottostante Lehman, ripeto, a scopo commerciale e semplicemente per non rovinare la nostra franchise e il buon nome della nostra banca nei confronti della clientela. Un attimo. Nel 2002 non era prevedibile. Però insomma è vero che l'accordo è extragiudiziale, ma voi avete, insomma, riconosciuto che tutto il capitale è stato restituito? No, noi abbiamo restituito al cliente i soldi che lui aveva investito nella polizza, una polizza che come sottostante aveva il titolo di una delle più grandi banche d'affari del mondo e che quando è stata collocata nel 2002 non c'era il minimo sospetto da nessuna parte che Lehman potesse fallire. Quello che ci tengo a dire è che non l'abbiamo fatto perché l'avvocato Castelli, principe del foro, ci ha messo tanta paura. L'abbiamo fatto semplicemente perché per quel cliente, come per tutti gli altri, anche coloro che non hanno fatto causa, abbiamo deciso di riconoscere il 100% per tutelare. Allora, adesso ho capito, a me interessa dei clienti, che l'abbiate fatto di vostra spontanea volontà o sotto pressione, diciamo, dell'avvocato, mi interessa meno. L'importante è che sia stato riconosciuto il principio che se tu compri una polizza in caso di banca network investimenti, non è che poi se c'è una garanzia sul capitale, il capitale glielo devi ridare. Avvocato Castelli, abbiamo veramente 10 secondi che la sigla ci dà già il tempo della chiusura. Mi vuole ribattere una cosa? Hanno transatto dopo la notifica, non hanno transatto prima. Questo dimostra la specificità e la positività dell'intervento giudiziario. Va bene, grazie così. A me interessava ricordare che si può vincere contro le banche, non parlo di banca network investimenti, ma in generale a tutte le centinaia di migliaia di obbligazionisti Cirio, Parmalat e Argentina che sono ancora in attesa, perché noi non dimentichiamo. Radio 24, la passione si sente.